su nome. Ozymandia, sono io e ridere. Ozymandia, disperate più potenti. Ammirando i miei lavori. Ozymandias. È sempre la stessa storia. L'uomo brama l'imponenza e trascorre la sua vita ad estenderla al futuro. Oggi il tempo ha fatto il corso, niente mostra lo splendore. Sono semplici parole con un eco ormai lontano. Ozymandias, sono io il re dei re. Ozymandias, sperato di onpotente. Ammirando i miei lavori. Ozymandias. Ozymandias, ammirando i miei lavori.